prigioniero. Poi un giorno mi prese il treno, l'erba e il frate, quello che era mio, scomparivano piano piano e piangendo vai vai con Dio. Quante volte ho cercato sole, quante volte ho mangiato sale, la città nella mille sguardi, io sognavo montagne verdi. Il mio destino è di stare accanto a te, come vicino più paura non avrò. E un po' bambino tornerò. Negli occhi tuoi, quando hai detto se fatto tardi t'accompagno se tu lo vuoi, per la nebbia le tue parole, la tua storia è la mia storia. Poi nel buio senza parlare ho dormito con te sul cuore. Io ti amo mio grande amore, io ti amo mio